a me non mi... Eccoci tornati sugli 87,9 di Radio Onda Rossa per parlare di un libro di Ursula K. Le Guin e I sogni si spiegano da soli e ne parliamo con la sua traduttrice e curatrice, Veronica Raimo. Ciao Veronica. Ciao. Allora, questo libro esce per Big Sur l'anno scorso, è un libro che in realtà è uscito nel 2018 ed è un libro in cui l'autrice parla di sé, nel senso parla di tante cose attraverso presentazioni, attraverso discorsi che aveva preparato per consegne appunto dei premi, attraverso discorsi che ha tenuto durante all'interno insomma di varie anche situazioni accademiche, con la sua particolarità. Ci sono tante riflessioni sul modo di scrivere, della tensione, della composizione dei suoi lavori, ma emerge ed esce tutto il suo mondo e anche il suo sistema mondo, il suo sistema di pensiero e diciamo la forte tensione critica che comunque traspare da qualsiasi dei suoi racconti, delle sue storie. È un'autrice fantasy e di fantascienza che non credo che debba essere presentata perché è una delle più famose. Oltretutto ha anche avuto accesso a delle premiazioni che erano abbastanza impensabili sia per le donne che per autrici di questo genere letterario. Per te, visto che tu hai appunto curato questa edizione e l'hai tradotto e hai scritto questa introduzione in cui, insomma, ci sei anche molto tu in prima persona. Che cosa ci troviamo tra le mani con questi sogni si spiegano da soli? Guarda, grazie dell'introduzione, insomma, così hai detto tu molte cose, ma in realtà è stata un po' una sfida anche cercare di far conoscere Ursula Le Guin anche come teorica a un pubblico italiano che magari la conosceva soltanto come scrittrice appunto di fantascienza e di fantasy, anche se non così tanto, ecco, rispetto magari altri suoi colleghi e colleghe. E comunque continua a rimanere abbastanza una scrittrice di nicchia. E con Sur abbiamo appunto pensato di cercare anche di portare quelli che potevano essere i suoi lettori, le sue lettrici, insomma, dei suoi romanzi, a un po' conoscere quello che era il suo pensiero teorico, e tu appunto parlavi di un sistema, ma in realtà è una scrittrice molto antisistemica anche nei suoi ragionamenti, ed è questo, per quanto mi riguarda, che la rende molto affascinante, cioè una scrittrice capace anche di autocontraddirsi, di mettersi in crisi, di ritornare sulle proprie posizioni. Il che secondo me è forse, no, la forza principale che può avere un pensiero femminista. Insomma, lo vediamo anche oggi, no? Rispetto a determinati nodi, determinate questioni fondamentali, quanto ci siano ancora, no, delle scissioni all'interno del movimento. E per me, appunto, Ursula Le Guin è proprio una teorica che in un certo senso cerca di analizzare la propria posizione, i propri convincimenti, ma anche di abbracciare quelle altrui e di metterle in relazione tra di loro. Cioè, quindi è un pensiero costantemente dialettico ed è un pensiero anche costantemente in divenire, ed è questa l'altra cosa interessante. Cioè, per esempio, uno dei suoi saggi più famosi, che è l'introduzione alla mano sinistra del buio, che si chiama Il genere è necessario, su cui lei ritorna, sembra ci sia una prima versione metà anni 70 e poi ci ritorna a fine anni 80, rivedendo delle proprie posizioni. Quindi, ecco, per me la scelta di far conoscere il suo pensiero era anche la scelta di far vedere quanto il pensiero femminista sia un pensiero trasformativo, in continuo divenire e anche pieno di contraddizioni. Ecco, quando uno appunto accusa le femministe di essere in contraddizione, è una contraddizione stessa l'accusa, non so come dire. Certo, no, ma quello che dicevo io intendevo per sistema, ovviamente lei si contrappone a quello che è il sistema fondamentalmente capitalista occidentale, ma intendevo invece la parte di circolarità che viene rappresentata anche fortemente con la frase e che lei poi spiegherà, no? In uno dei saggi che avete raccolto, insomma, e nei sogni, nella frase, i sogni si spiegano da soli ed è tutta la sua. Anche la sua, diciamo, il suo essere stata influenzata, comunque il suo interesse per tutta la parte, per la filosofia e per il taoismo, per tutto il discorso orientale, che poi si va a contrapporre con un forte dualismo a cui invece l'Occidente è abituato. Quindi intendevo questa circolarità che poi lei descrive anche come caratteristica sia del fantasy che del femminile, ma anche appunto questo discorso su cui lei magari torna in forme, insomma, in varie forme del discorso appunto dello yin e lo yang, quindi comunque una appunto la presenza di coppie che è vero che sono polari, di elementi che sono polari, ma non sono categorie fisse, anche lì c'è questo discorso che è interessantissimo. E potrebbe anche rientrare nel discorso di non essere ideologica, cioè quello che dicevi tu, del fatto che lei ritorna sui suoi passi a proposito di questioni anche appunto legate al genere, alla scelta dei pronomi, all'importanza del linguaggio, no? Proprio a delle scelte terminologiche che veicolano l'altro. Però, per esempio, con il discorso della circolarità e questo aspetto dello yin e dello yang, c'è comunque appunto sono categorie, se si possono chiamare così, che non sono fisse, ma servono comunque a definire il presente e il mondo, diciamo sì, l'esistente e non solo. Per relazione e contrasto, cioè tu non puoi parlare in assoluto, no? Per cui c'è sempre un discorso che è una cosa yin o yang in relazione a qualcos'altro ed è tutto in relazione in questo sistema circolare. Per questo intendevo, no? Ci tenevo insomma a specificare questa cosa perché oltretutto è una visione proprio dinamica dell'universo che lei anche esprime attraverso oltretutto questa ricerca e per lei anche l'utopia che racconta. Conta, è un'utopia che appunto ha delle contraddizioni e dei limiti. E quello che viene, che magari ci puoi un po' raccontare, è l'importanza anche dell'importanza dell'immaginazione come elemento trasformativo della realtà, perché poi è questa la cosa bellissima, e qui ritorna anche l'Oriente e tutto il resto, nel senso che c'è sempre un'esperienza incarnata, cioè il mondo altro è l'immaginazione, ma c'è sempre una potenza nell'incarnato, ecco, non so come dire, c'è sempre un. Tutto viene sempre poi. È un continuo dialogo appunto tra il micro e il macrocosmo, quindi è veramente una scrittura molto semplice e molto colloquiale, ma molto potente. E quindi niente, ci vuoi parlare un po' di questo aspetto appunto dell'immaginazione, della circolarità? Sì, l'immaginazione per lei appunto è una forza, è una risorsa fondamentale che poi mette anche, diciamo, in contrasto invece con quella che sono saggi, questi scritti anche insomma, tra gli anni 70 e gli anni 80, e Esatto. oggi, sì, lo vediamo quanto questa cosa è andata veramente ancora di più in un certo senso alla rovina, contro la creatività, no? Perché la creatività poi può essere effettivamente invece strumentalizzata in maniera aziendalistica, cosa appunto che oggi è sempre più evidente. L'immaginazione e quelli che sono gli scrittori, le scrittrici dell'immaginazione, sono proprio, appunto lei rivendica questa sorta di quasi capacità effettivamente di provare a indagare, esplorare. Con gli strumenti che abbiamo, appunto, visto che siamo esseri umani, una realtà oltre la realtà, quindi appunto l'idea di essere, no, realisti di una realtà più grande. E questo, insomma, quasi realismo, non so, amplificato, aumentato, è quello che appunto poi contraddistingue anche la sua idea di fantascienza. E che la mette in contrapposizione a quella che era stata una fantascienza invece molto, molto lineare, molto di stampo no, non soltanto macista, ma direi anche quasi militarista, no? Se pensiamo a tutte, insomma, quegli stereotipi fantascientifici in cui abbiamo, no, questa idea di boh, conquista di altri pianeti, assoggettamento di altre popolazioni, invasione degli alieni, battaglie spaziali, eccetera, eccetera. Quindi tutta questa retorica di dominazione, di dominati. E appunto di conquista dello spazio e di sopraffazione in fondo. Lei invece cerca appunto in queste utopie imperfette, che poi sono, come dicevi tu, appunto delle utopie in fondo in divenire, trasformative, cerca appunto anche invece un'ipotesi di coabitazione tra popolazioni diverse, popolazioni indigene, popolazioni aliene, cioè l'idea di provare a ripensare i canoni stessi della fantascienza, non più come appunto idea di conquista, ma come idea di coesistenza, coabitazione, anche di ripensare quelli che sono, no, i due grandi poi cliché delle scritture della fantascienza, ossia l'utopia da una parte e la distopia dall'altra, metterle in continua relazione e far vedere come l'una effettivamente continuamente si trasformi nell'altra e qualunque scelta appunto unidirezionale per l'utopia o per la distopia, alla fine insomma, si rivelano delle scelte un po' asfittiche, sia da un punto di vista letterario, sia da un punto di vista dell'immaginazione, perché una distopia, una volta che si chiude in se stessa, insomma, non potrà, no, avere grandi sbocchi, ma lo stesso l'utopia, cioè quindi se non si cerca il modo di farle intersecare di continuo, le narrazioni stesse finiscono per essere sia asfittiche che molto stereotipate. E questa è una, insomma, una lotta che lei conduce da due punti di vista, una appunto proprio cercando di scardinare quelli che sono stati i cliché di tanta fantascienza scritta poi maggior parte dagli uomini e anche quella che un po' è ancora adesso, no? Quasi una sorta di topos nella letteratura in generale, che è quella del viaggio dell'eroe, quindi no, l'idea che ci sia anche in quel caso una linearità di questo eroe che deve andare o a conquistare qualcosa, o comunque in un certo senso ha sempre un percorso molto lineare, molto dritto, lei lo paragona a una freccia, quindi anche quello, no? Un simbolo aggressivo che va da un punto A a un punto B. E giustamente dal suo punto di vista dice non basta, no, sostituire l'eroe con l'eroina, non è questo il passaggio che dobbiamo fare, ma forse possiamo cominciare a ripensare i personaggi come una collettività, lei appunto fa questo saggio in cui una visione, una teoria della letteratura come sacchetto della spesa, invece di questo viaggio dell'eroe, invece di questa freccia unidirezionale dove l'eroe deve appunto compiere la sua missione, prende quest'altro simbolo che è il sacchetto della spesa e cerca di fare un ragionamento sulla letteratura in cui dentro questo sacchetto effettivamente ci possono essere tanti elementi eterogenei, tanti elementi assolutamente non eroici, assolutamente non eclatanti da nessun punto di vista, ma appunto proprio delle piccole sementi, dei piccoli, non so, anche elementi che ci sembrano poco significativi, poco dignitosi e che invece costruiscono in maniera corale, come un affresco, una storia probabilmente più ampia e anche più rispondente al reale, perché poi appunto il mondo e la storia, le storie personali non sono fatte da viaggi eroici, molto spesso sono fatte invece dai grandi inciampi, da tentennamenti, da fallimenti, ecco, che è un altro tema su cui lei torna spesso, insomma, proprio come anche in quel caso appunto l'idea, no, che non dobbiamo essere direzionati a volte soltanto all'idea del successo, perché comunque il successo personale molto spesso corrisponde al fallimento di qualcun altro, ma pensare di abbracciare anche un'idea di fallimento come condizione esistenziale è qualcosa di abbastanza sovversivo e soprattutto se pensiamo che questi discorsi appunto andava a tenerli 40 anni. sì, nei college dove doveva boh, magari uscire fuori la futura classe dirigente americana, ecco, andare a parlare di fallimento quando degli studenti o delle studentesse si stanno laureando e diplomando, insomma, è qualcosa di veramente molto sovversivo e radicale. Assolutamente, anche perché appunto sono temi che, di cui fortunatamente noi continuiamo, diciamo, a parlare, ma sono anche appunto non solo per il contesto dove venivano fatti, ma anche gli anni, nel senso che anni fa, insomma, l'impatto è anche diverso, e come dicevi tu giustamente, il parlare, cioè il dire proprio io non vi vorrò incitare al successo è qualcosa di, insomma, che detona parecchio. E c'è questo discorso quindi anche del come funziona il processo di scrittura, perché appunto c'è sempre questa sensazione di, vabbè, la scrittura l'ha accompagnata per tutta la vita, insomma, ha iniziato a scrivere da molto piccola. Vabbè, lei comunque nasce da una famiglia, professore, un antropologo e una professoressa, insomma, a Berkeley, quindi diciamo tra i libri c'è cresciuta. Però c'è sempre questo discorso con un tono abbastanza, appunto, non sopra le righe, che non incita alla mitomania o comunque all'ammirazione, ma cerca di, non lo so, almeno da quello che ho letto, cerca di trovare delle, come dice lei, cerca di tro che cercava di trovare delle mappe, no? Sia per scrivere che per orientarsi poi nella vita. Quindi comunque persone, personaggi, scrittori, scrittrici che l'hanno accompagnata in questo. Però il discorso del come dicevi tu, cercare di creare un'eterogeneità di linguaggio e soprattutto di abbassare i toni dell'elevazione appunto del narcisismo personale o comunque della mitizzazione anche, no? Di figure, ma riportarle, rappresentarle per la loro importanza in un discorso più ampio che comprende anche fallimenti, quindi anche tutto il discorso interessante, no? Il discorso della sua tensione verso la scrittura, del come magari odiava i consigli appunto di composizione, di come trovava i suoi personaggi, no? Per cui a un certo punto li trovava, e in questa sorta di, nel suo subconscio, insomma, come scrive. E tu che ci racconti rispetto a questo, proprio al processo di scrittura? Intanto appunto cioè la selezione di questi saggi è stata fatta personalmente anche proprio scegliendo dei saggi che appunto ho provato a prendere sia i saggi più politici sia dei saggi che effettivamente entravano molto nei meccanismi di scrittura letterari perché mi interessavano, perché mi sembrava anche lì forse sono i saggi più irriverenti, ci sono appunto lei c'ha una grande ironia anche, c'è cioè un saggio molto famoso che si chiama Tutte le famiglie felici e ribalta un po', no, il famoso incipit per cui, insomma, di Anna Karenina, dicendo che non è vero che appunto che tutte le famiglie felici si assomigliano e quelle infelici invece, mentre ogni famiglia è infelice a modo proprio, e soprattutto quest'idea che raccontare la felicità o raccontare una famiglia felice sia di per sé quasi una cosa meno interessante letterariamente, come se appunto poi dovessimo cercare in letteratura per forza, no, di scandagliare il male, l'abisso, l'angoscia, l'infelicità, mentre lei appunto prova a ribaltare il discorso e dire ma proviamo invece a vedere anche nel bene, nella felicità, nella possibilità, no, di un'armonia, di trovare delle cose che non siano così banali, perché bisogna dar per scontato che la felicità è banale, che le famiglie felici si assomigliano, cioè dove sta scritto, qual è appunto, cioè, è un grande incipit, però è un assioma, insomma, un po' fragile. E allo stesso modo, insomma, se la prende, no, con anche le figure così altrettanto eroiche di certi scrittori, come può essere Hemingway o Conrad, che sono figure che sono anche, insomma, che in qualche modo hanno goduto di un proprio privilegio, cioè che in quel caso è il privilegio di essere comunque degli uomini. E quando prova a raccontare invece che cosa significa essere una scrittrice ed essere una donna, anche oppure essere un'artista donna, cioè fa appunto una disamina, ad esempio, delle rappresentazioni che abbiamo di chi scrive e cioè delle donne che scrivono o delle donne che cercano di fare le artiste proprio nell'immaginario comune. Ed effettivamente è molto strano perché poi appunto questa cosa effettivamente magari nel tempo per fortuna è cambiato. È come se dovessimo vedere anche loro in una sorta di tentativo di assomigliare agli uomini e quindi completamente far fuori dalla propria narrazione anche quelle che sono delle incombenze, insomma, domestiche, di maternità, il rapporto con i figli, eccetera, eccetera. Questa cosa, per esempio, è molto interessante quanto sia cambiata nel tempo. Appunto, lei un po' denunciava il fatto che fosse un argomento quasi, quasi tabù per una scrittrice occuparsi di maternità. Come se appunto fosse di per sé sporco come argomento, cioè non abbastanza alto, e questo, se ci pensiamo oggi, invece sono talmente, forse anche troppe ormai, no? Le scrittrici che parlano dell'essere madre o non essere madre, la scelta di fare figli, bla bla bla. Però è vero che è una cosa che è mancata per tanto tempo, no? Insomma, anche il racconto, insomma, il rapporto con il proprio corpo e il rapporto con tutto quello che non sembra così squisitamente letterario, ecco appunto. E quindi, vabbè, a me interessava un po' proprio il suo, anche qui, il suo modo di decostruire quelli che sono stati per tanti anni dei cliché, e mi piaceva, insomma, il suo modo sempre molto, molto ironico, ma insomma, elegante, ma non sarcastico in senso cattivo, di prendersela poi con degli scrittori che comunque ha anche amato, insomma, se cioè, si permette, insomma, di prendersela con Tolstoi proprio perché ha amato molto Tolstoi ed è bello vedere come, no, certi miti vengono rielaborati proprio perché magari c'è stata un'età della nostra vita in cui siamo anche state soggiogate dal mito stesso e poi come ci possiamo tornare, no, negli anni e vedere delle storture, delle cose che non abbiamo visto, cioè insomma come cambiare la prospettiva ci aiuta, no, anche a vedere tutto il contesto intorno, insomma quello che non è subito evidente. E quello che fa lei è proprio questo, un po' spostare la prospettiva sulle cose a cui siamo abituati, con un rovesciamento che molto spesso è spiazzante, ma è sempre fatto appunto con un'ironia assolutamente calda, mi verrebbe da dire, ecco, non c'è mai un cinismo freddo. Assolutamente, infatti per esempio proprio per diciamo, collegarmi a te c'è questo, proprio per il discorso anche dell'ironia, ecco, oltretutto cose a cui accennavamo prima, lei nel discorso per la consegna dei diplomi dice appunto, a parte che comunque quello che aveva imparato al college era la lingua del potere e soprattutto tutta la cosa, tutto il processo per cui si impara a disimparare comunque. E quindi diciamo con un aspetto abbastanza critico e ironico. E soprattutto parla in questo contesto, diciamo, formale e serioso, anche se di festeggiamenti, immagina, perché comunque è la chiusura di un ciclo, parla della lingua dei padri e della lingua madre. Ed è un discorso che appunto ci può risultare familiare oggi comunque, ma è di strada ce n'è ancora tanta da fare, ma sicuramente nell'86 era qualcosa di abbastanza particolare e farlo in quel contesto ancora di più. Volevo leggere giusto due righe per anche dare agli ascoltatori e le ascoltatrici un po' l'idea del modo in cui lei scrive al riguardo. La lingua dei padri, dell'uomo in ascesa, dell'uomo conquistatore, dell'uomo civilizzato, non è la vostra lingua nativa, non è la lingua nativa di nessuno. Nei vostri primi anni di vita nemmeno la sentivate la lingua padre, a parte alla radio o alla televisione, ma comunque non prestavate ascolto né voi né il vostro fratellino, perché si trattava soltanto di qualche vecchio politico coi peli nel naso che stava lì a fare discorsi noiosi. E voi e il vostro fratellino avevate di meglio da fare, dovevate imparare un altro tipo di potere, stavate imparando la vostra lingua madre, utilizzando la lingua padre, posso parlare della lingua madre soltanto, inevitabilmente per distanziarmene e per escluderla. È la lingua altra, quella inferiore, è primitiva, inaccurata, confusa, rozza, limitata, triviale e banale. È ripetitiva, sempre uguale, come il lavoro che viene chiamato lavoro femminile, profano, casalingo. È volgare, La lingua volgare, comune, banale, colloquiale, bassa, ordinaria, plebea, come il lavoro che fa la gente normale, la vita che vive la gente normale. La lingua madre parlata o scritta si aspetta una risposta, è una conversazione, parola la cui radice significa trovarsi insieme. La lingua madre è un linguaggio inteso non come mera comunicazione, ma come relazione, rapporto, crea un legame, va in due direzioni, in molte direzioni, è uno scambio. Una rete, il suo potere non è dividere, ma legare, non distanziare, ma unire. E ovviamente poi va avanti. Però in questo suo, oltretutto, in questo suo raccontare, in questo suo raccontarsi anche, perché, ripeto, parla anche di sue esperienze, c'è sempre, come dicevi tu, no? Passare anche il limite. E forse è una figura di cui lei parla, ma anche forse lei stessa, nel senso che lei parla anche spesso del trickster, no? Per cui questa figura che si permette che è perfettamente consapevole di dov'è il dentro e dov'è il fuori rispetto a delle regole, no? Che ci si danno e può giocare e non rischia nulla, anche se poi è considerato in un certo modo all'interno della società, però in situazioni formali può permettersi di rovesciare tutto. E comunque, per me questa autrice riesce a spingersi, ed è una cosa che magari dice anche nel testo, però spingersi e cercare appunto ed es continuare ad esplorare, giocando però e co conoscendo i limiti, cercando di giocarci tantissimo in questo senso. Sì, la figura del trickster appunto è fondamentale per lei proprio per evitare di costruire poi dei personaggi che siano invece cioè appunto, come dicevo prima, eroici di per sé, ma anche virtuosi. Appunto, non le interessa la virtù, ma le interessa più un altro tipo di virtù, allora proprio un po' l'arte di arrangiarsi. E questi personaggi che sono sempre, appunto, come dicevi, un po' sul limite e sono personaggi che possono infrangere le regole, questa come insomma lei stessa lo fa in continuazione anche insomma, sia nei suoi ragionamenti che in maniera proprio letteraria. Ed effettivamente anche questo insomma, è un grande atto sovversivo, l'idea no, di non postulare ecco, una legalità anche all'interno no, della letteratura e dell'ideologia. Cioè, e sappiamo, appunto, non so. Stando in una città come Roma, quanto la parola legale e illegale no? Sono molto scivolose, quanto appunto una retorica su cosa è giusto, quando è il potere a decidere cosa è giusto, insomma, è abbastanza una trappola in cui ci mettiamo da soli. Quindi l'idea invece che ci siano dei personaggi insomma, che agiscono sia in maniera collettiva e sia appunto cercano di un po' di sfuggire a quelle che sono le regole dettate dall'alto, dettate appunto dalla lingua padre, dettate dalle convenzioni, è qualcosa appunto di abbastanza anche di abbastanza spiazzante da vedere, perché soprattutto in un genere come la fantascienza, dove invece le regole sono fondamentali e sono impositive, e chi non le rispetta di solito è sempre no, considerato il cattivo, l'uomo nero, appunto, non so, la pianta infestante o l'alieno. E quindi invece cercare anche in questo caso di ribaltare la prospettiva e insomma un po' suggerire che forse le regole si possono mettere in discussione, capire chi è che è. Stato, insomma, chi è che detiene il potere, quindi chi è che in fondo ha stabilito queste regole, è un modo per scardinare proprio i principi della narrazione fantascientifica e di rovesciarli dall'interno. Assolutamente sì, e quindi viva anche la sovvertire l'ordine costituito, appunto, e viva anche le contraddizioni e i paradossi se servono a tutto questo, e sono anzi oltretutto fondamentali per la vita, per il mantenimento della vitalità e dell'essere appunto presenti un po' a se stessi, con appunto non zombificati. Comunque, allora, siamo in chiusura di questa splendida intervista su questo libro con Veronica Raimo, che lei è curatrice e traduttrice, ma è una scrittrice, non l'ho detto, ma vabbè, lo sappiamo tutte, ma comunque lo dirò adesso in chiusura. E il libro di cui ha curato l'edizione per Big Sur e che ha tradotto è di Ursula Le Guin, I sogni si spiegano da soli, immaginazione, utopia, femminismo. In chiusurissima faccio la domanda di rito, così spiazzante, ma ormai credo che lo conoscerai, è un consiglio di lettura per chi ci sta ascoltando. Qualsiasi cosa ti viene in mente, anche un libro che non è uscito adesso, ecco, non di ultima, non fresco fresco. Un libro che consigli. Ok, fammi non ho Ta-da! la domanda spiazzante. No, guarda, un libro bello che ho letto di recente è Il Tarlo di Laila Martinez, uscito Ah! per La Nuova Frontiera. Ce Ok, perfetto. Allora, vedi, l'avevo, dico. interessante però. Vedi, l'ispirazione è arrivata. E ti ringrazio tantissimo e spero di riascoltarci presto su queste frequenze. E nulla, buona serata e grazie per essere stata con noi e averci parlato di questo bellissimo libro che consiglio a tutti e tutte vivamente. Grazie Grazie a voi. mille, Veronica. Ciao. Ciao, Serata. ciao, ciao. Ciao.